Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sargante e il traghettatore, ben trovati. Vi ricordo che settimana prossima, già martedì, comincia con un bel impegno per chi vuole difendere il clima e la salute del nostro pianeta. 7 giugno a Milano, infatti, piazze tematiche, spettacoli, mostre e concerti per fermare tutti insieme la febbre del pianeta. Si chiama In Marcia per il Clima, c'è un corteo alle 15, dalle 17 a oltranza poi i concerti. Promossa da Lega Ambiente, è stata condivisa e firmata da un centinaio di associazioni sensibili al tema dell'ambiente. Il mercato e la felicità, questo è decisamente un tema singolare quanto ambito. Nei due giorni del mercoledì e giovedì 8 e 9 giugno all'Università Milano Bicocca, all'Auditorium, c'è una conferenza internazionale che è organizzata da Econometica, che riunisce i più grandi luminari. Non a caso molti di questi saranno presenti: c'è Marta Nussbaum di Chicago, Bruno Frey dell'Università di Zurigo, Giovannini dell'Istat, ovviamente non poteva mancare, Sagan dell'Università dell'Inghilterra Orientale, e poi ancora da Rotterdam, da Bologna, e ovviamente non poteva mancare Stefano Zamagni dell'Agenzia Italiana per le Onlus. Venerdì finisce la settimana con un evento organizzato dalla Fondazione Think qui a Milano in via Marostica, che vogliamo segnalarvi perché ha una originalità. Propone una ricetta, un calcolo del profilo energetico ideale per il settore dell'industria. Si spiega che cos'è questo calcolo del profilo energetico il presidente della Fondazione Think, Roberto Masiero. Buongiorno. Questa ricerca si pone all'interno dell'attività della nostra fondazione, che si occupa di fare ricerca indipendente sul tema di come le tecnologie digitali possono promuovere il miglioramento della qualità della vita e la crescita economica nel mondo. La ricerca è aperta dal un paper che verrà presentato nel corso del convegno del 10 giugno prossimo, che si focalizza fondamentalmente su tre temi: lo stato dell'arte dell'efficienza energetica nel nostro paese, l'analisi dei costi totali di produzione e di distribuzione per fonte energetica e lo stato dell'arte delle tecnologie di produzione. E l'obiettivo è proprio quello di sviluppare dei modelli di rappresentazione dei dati energetici e di emissione per il calcolo di un profilo energetico ideale. Questo dimostrerebbe che un po' la tendenza affermata è non esiste una soluzione al problema energetico, ma è un mix di soluzioni, e quindi voi avete visto il problema energetico da tutti questi punti di vista. Certo, il dato fondamentale è che esistono molte misurazioni parziali o settoriali, ma quello che manca è la capacità di integrazione fra questi diversi elementi e queste diverse variabili. Il profilo di energetico di riferimento, o profilo ideale di un'azienda, secondo la nostra concezione, è quello che riesce a realizzare un modello di consumo energetico ottimale e sostenibile, che non penalizzi, anzi possibilmente li migliori, i processi produttivi alla base del suo modello di business. Cioè, in pratica, gli aspetti che un'azienda deve considerare quando affronta il tema dell'efficienza energetica all'interno dei suoi processi sono molteplici, non sempre sono semplici da esaminare. Per esempio, la misura dei consumi nei diversi reparti con i relativi sensori da installare, la carbon footprint, le tecnologie più efficienti da adottare per il condizionamento, le tecniche di costruzione e di coibitazione degli edifici, la sensibilizzazione culturale dei dipendenti. Difficilmente si riesce ad avere una visione integrata e completa dei problemi e delle possibili soluzioni. Spesso si attuano degli interventi puntuali senza avere una chiara indicazione degli indicatori concreti e oggettivi che consentono di ottimizzare il mix di queste misure. Grazie Presidente, sicuramente un'angolatura visuale interessante e utile per tutti. Vi ringraziamo di averci seguito come al solito. Ferry Boat, @radio24.it è l'indirizzo dove potete segnalare le vostre iniziative. Ferry Boat va in onda alle 16.50 e alle 14. In redazione grazie ad Anita Panizza per la collaborazione, in regia a Pietro Lacorte.